Goffredo Fofi è noto soprattutto come critico letterario e cinematografico, forse il più indipendente e quindi il più autorevole del momento, ma nella sua lunga vita, ha oggi 85 anni ed è sempre attivissimo, ha vissuto esperienze straordinarie in campo sociale e in senso lato politico, incontrando e facendo amicizia con alcune delle persone più interessanti e originali che abbiamo avuto nel dopoguerra e attraversando esperienze d'avanguardia come è capitato a pochi altri. Basti dire che tutto cominciò per lui negli anni 50, quando si trasferì, fresco di diploma di maestro, nella Sicilia di Danilo Dolci, per essere parte di quel progetto di lotta e trasformazione avviato da un personaggio unico, quale era Dolci, protagonista di lotte non violente avanzatissime, nella difesa dei più poveri, nella denuncia dell'inerzia delle istituzioni pubbliche nelle zone più remote del paese, in una lotta pionieristica alla mafia, all'epoca dominatrice incontrastata dell'isola. In questo periodo sono usciti ben tre libri di Goffredo Fofi. Uno, curato da Emiliano Morreale, pubblicato da Minimum Fax, si intitola «Son nato scemo e morirò cretino», ed è una selezione di suoi scritti dagli anni 50 a oggi, una sorta di mappatura del suo infinito curiosare, viaggiare, incontrare, leggere, guardare film, studiare. Un altro, Cari agli dèi, pubblicato da EO, è composto da una serie di ritratti di personaggi incontrati e conosciuti da vicino e però morti prematuramente. Si va da Alex Langer a Mauro Rostagno, da Raniero Panzieri a Fabrizia Ramondino e Alessandro Leogrande e numerosi altri. Il terzo libro è quello che ci interessa più da vicino, per ragioni rese evidenti già dal titolo: Non mangio niente che abbia occhi. È uscito con l'editore Contrasto ed è l'esposizione delle ragioni vecchie e nuove che motivano l'antica e sempre attuale scelta vegetariana compiuta da Fofi. Fofi è vegetariano dagli anni 50, secondo una scelta compiuta anche da Dolci. E si trattava di un'epoca nella quale l'attenzione per gli animali, la pratica della non violenza, erano visti un po' di traverso in tutti gli ambienti politici e culturali. E furono scelte che guadagnarono a Fofi la fama di eccentrico, di eterno irregolare. I tempi cambiano, ma le buone ragioni restano e forse si radicalizzano. Il vegetarianesimo, o vegetarismo come lo si chiamava un tempo più correttamente, scrive Fofi, non è più una scelta di anime belle, ma è perfino oggi un dovere impellente, una necessità collettiva. Fofi dunque si pone su un livello diverso rispetto alle consuete divisioni fra vegetariani etici e vegetariani ecologisti e sostiene un punto di vista più aperto e plurale, mostrando un'attitudine morale, politica e pratica, più che una pretesa ideologica o filosofica. Non è solo per amore delle creature, scrive ancora, che si diventa vegetariani, e tantomeno per sentirsi orgogliosamente buoni o migliori, ma per necessità storica, perché la storia lo richiede, lo esige. Qui il riferimento evidentemente è alla catastrofe climatica ed ecologica che affligge l'umanità e che necessita di pensieri nuovi, di un diverso punto di vista, di un cambiamento del modo di vivere, affinché si possa immaginare una via d'uscita. Fofi in questo libro propone un racconto molto personale e lo arricchisce con citazioni e brani da interventi di alcuni personaggi e libri che per lui sono stati importanti. Oltre a Dolci vanno menzionati certamente Aldo Capitini, che Fofi affiancò e supportò al tempo della prima rivoluzionaria marcia per la pace fra Perugia e Assisi nel 1961. E poi Anna Maria Ortese, la scrittrice che parlava degli animali come di piccole persone, e tanti altri. Rinunciare alla carne e al pesce, spiega Fofi, volle dire per me condividere una condizione che allora era di massa in quelle parti d'Italia. E qui Fofi si riferisce alle zone più povere e abbandonate della Sicilia dagli anni 50. E sentirmi parte del mondo degli ultimi, scegliere una precisa collocazione. E da allora in avanti, come detestai la sinistra borghese e consumista, che diceva e dice una cosa e ne pensa e ne fa un'altra, credendo che il pensiero o una tessera bastino a certificare una fede. Fofi racconta anche di avere per un periodo abbandonato la scelta vegetariana. Ebbi, racconta, il mio periodo pseudo-marxista di simpatie rivoluzionarie e di conseguenza violente, nonostante le lettere che Capitini mi scriveva, preoccupato per la mia evoluzione o involuzione. Mangiai di nuovo carne. Ma diversi anni dopo, un bel giorno, disgustato in un ristorante del mio paese dalla voracità con cui i miei compaesani divoravano montagne di carne, loro che avevano vissuto la vita grama del contadino e i loro figli, che erano ormai figli di un'altra storia, i primi della grande mutazione, decisi all'improvviso di tornare definitivamente vegetariano, per convinzione infine profonda e ragionata, e anche per vero amore degli animali e sincero disgusto della feroce e sanguinaria cattiveria nei loro confronti. Fofi nel suo libro cita e riporta brani di Anna Maria Ortese e Elsa Morant, di Jonathan Safran Foer e di Vassili Grossman, di Alfred Döblin e del sudafricano Coetzee, ma forse il suo messaggio più forte e originale è in questo passaggio, dove dice: ogni movimento di liberazione animale dovrebbe avere come primo alleato uno speculare movimento per la liberazione del fanciullo, i cui diritti, nonostante carte, convegni e retoriche d'ogni tipo, sono oggi più conculcati che mai. I bambini, dice Fofi, sono preda di una società, famiglia, scuola, chiesa, media, che fa di loro degli stupidi, senza il senso del giusto, del bello, del vero, senza più la capacità di potere, una volta adulti, esercitare alcun autentico libero arbitrio. I bambini, insomma, ci dice Fofi, sono addestrati al consumo, sono sfruttati, in qualche modo alienati, e invece proprio loro, scrive, sarebbero i perfetti mediatori fra la sensibilità umana e quella animale, come hanno capito meglio di tutti, nel nostro paese, due scrittrici che volevano essere qualcosa di più che semplici scrittrici, Anna Maria Ortese e Elsa Morante. Goffredo Fofi, Non mangio niente che abbia gli occhi, edizioni Contrasto.